Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lo hanno scoperto negli anni 30, ma fino a poco tempo fa poteva permettersi di usarlo giusto la NASA. Parliamo dell'aerogel, anzi degli aerogel, dato che sono una classe di materiali molto leggeri e dotati di un potere isolante di gran lunga superiore a quello di tutti i materiali isolanti tradizionali, tanto che appunto le prime applicazioni degli aerogel si sono avute nello spazio, per esempio per confezionare tute spaziali. Da qualche tempo però sono state messi a appunto dei nuovi processi industriali per produrre aerogel che ne hanno ridotto drasticamente i costi, tanto che oggi questo materiale si sta affermando come materiale da costruzione. Allora cerchiamo di saperne un po' di più con l'aiuto della professoressa Fabrizia Greppioni, docente di chimica dell'Università di Bologna. Buonasera Greppioni. Buonasera. Allora Greppioni, che cos'è un aerogel? Ce lo spieghi e come viene prodotto tipicamente questo materiale? In poche parole, un aerogel è un materiale estremamente poroso. Può essere a base di silice, può essere a base di carbonio oppure di ossido di alluminio. Quelli più interessanti dal punto di vista delle costruzioni, soprattutto adesso che dobbiamo preoccuparci di risparmio energetico, quindi di non disperdere il calore nell'ambiente, sono quelli a base di silice. Okay. La produzione viene fatta a partire da una soluzione di composti del silicio che vengono convertiti poi in un gel, esattamente come quando si fanno le gelatine per preparare un dolce. Questo processo richiede poi un invecchiamento. L'invecchiamento è fatto perché il nostro gel non è altro che un reticolato di particelle di silice che devono sopportare poi l'allontanamento del solvente e quindi deve rimanere in piedi. Bisogna asciugare il gel lasciando la struttura che gli dà consistenza sostanzialmente. Anche perché se rimane del solvente l'aerogel diventa più denso, le sue proprietà non sono altrettanto buone. Certo. È come se fosse insomma la struttura della spugna, tra virgolette, sì, no? Dobbiamo togliergliela. Il passaggio più delicato è quello che tuttora rappresenta lo stadio anche costoso e si sta facendo ricerca, è proprio quello dell'essiccamento, cioè togliere il solvente senza che il reticolo collassi. In modo che al posto del liquido, diciamo, rimanga l'aria, rimanga un gas, e questo fa sì che questi materiali siano leggerissimi. Quanto pesano? Questi materiali, dunque, faccia conto che un metro cubo di gel di silice pesa 3 kg, mentre un metro cubo di quarzo, che è silice vetrosa, pesa 2 tonnellate. Certo. Quindi una bella differenza. Ecco, senta, allora, quindi prestazioni soprattutto in campo edilizio e dove viene utilizzato? Perché comunque rispetto ai materiali tradizionali resta un materiale costoso. Resta ancora un materiale costoso e viene utilizzato soprattutto quando si vuole privilegiare lo spessore del materiale isolante. Se noi vogliamo isolare un edificio, per esempio anche un edificio storico, quindi non soltanto gli edifici nuovi, ma musei, edifici antichi, che magari hanno dei fregi o delle cose di questo genere. Non possiamo pensare a dei cappotti termici di 12 centimetri, certo. Esattamente, ma possiamo ridurre enormemente lo spessore utilizzando aerogel a base di silice. Tanto per dare un'idea, un pannello da un centimetro di questi materiali ha un effetto assolutamente significativo, no? Sull'isolamento. È sufficiente uno spessore della metà o anche inferiore rispetto a un isolante convenzionale e oltretutto è anche molto leggero ed è anche trasparente o almeno traslucido, per cui può essere anche utilizzato per le finestre. Ah, ecco. C'è però qualche problema per la salute? Ogni tanto si sente parlare un po' in generale con riferimento ai materiali nanostrutturati, ed è questo senz'altro il caso. Si pensa, insomma, ci potrebbe essere qualche problema magari nel momento in cui si respirano queste polveri. Perché questi aerogel sono come se noi avessimo delle bellissime collane intrecciate con delle fatte di perle di silice di dimensione nanometrica. Certo. O micrometrica anche. E il problema per la salute può essere rappresentato dal fatto che il materiale è comunque fragile, quindi va protetto e può perdere, diciamo così, polvere di silice. Però è una silice amorfa, non è una silice cristallina. Quindi in quanto silice amorfa è sicuramente fastidiosa come una qualunque polvere che viene inalata, quindi per chi lavora nel settore può rappresentare un problema, ma dal punto di vista dell'effetto della silice biologico sul tessuto, esatto, proprio dovrebbe dovrebbe, sembra che questo problema non sia grave, cioè non ci sia insomma questo problema. Tra l'altro è recentissimo l'annuncio della produzione da parte dell'Università dello Zhejiang in Cina, quindi del materiale più leggero al mondo, è un aerogel appunto 7,5 volte più leggero dell'aria addirittura, 4 mg al centimetro cubo. Praticamente pazzesca. Niente, infatti si parla poi di fumi quando si parla di aerogel. Ecco. Ci sono già delle dispute in questo senso, cioè c'è chi sostiene che gel più leggeri sono stati prodotti utilizzando silice, quindi questo è il bello poi della ricerca della di punta. Scientifica. Diciamo così. Grazie, professoressa Grepioni. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.